il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per commentare insieme i tantissimi fatti della settimana, provate un po' a concentrarvi. Lo so che quando si chiede, per esempio, qual è il tuo film preferito, la tua canzone preferita, uno rimane lì un po' così impallato e la difficoltà, insomma, con tutte le cose che ha sentito e visto nella sua vita, dice adesso qual è il mio film preferito, la mia canzone preferita. Quando lo si chiede, uno così si blocca improvvisamente. Però voi avete tempo per concentrarvi e pensare qual è la notizia che vi ha colpito di più questa settimana. Il numero verde da subito è 800 24 0024. Vi anticipo che chiuderò i battenti un pochino prima questo sabato, anche il prossimo sabato, in vista del Salone dell'Internazionale del Libro di Torino, dove sarò con tutta Radio 24 naturalmente. Per quanto riguarda Non ci sono più le mezze stagioni, se volete ci vediamo il 14 maggio a Torino. E quindi vi dicevo un pochino prima perché alla fine della puntata ci sono 4-5 minuti con una rubrica dedicata appunto alla fiera del libro che vi prego di seguire, quindi faremo un po' prima e quindi se volete intervenire e esprimere la vostra opinione sui fatti della settimana chiamate solertemente l'800 24 0024. Ma per sintetizzare alcune notizie di questa settimana, giusto per così darvi qualche indicazione, ma sapete che siete sempre libere e liberi in assoluto di porre quella che è all'attenzione, quella che è la vostra notizia della settimana secondo il vostro punto di vista. Diciamo che sicuramente molte polemiche hanno suscitato le ultime affermazioni del presidente del Consiglio Berlusconi sul nucleare. Quindi si fa, non si fa, c'è stato lo stop, il governo ha votato lo stop, una moratoria, quindi una sospensione o un'abrogazione, i referendum si fanno o non si fanno, insomma avete sentito, no? Quanto dibattito piuttosto animato anche questa settimana. E poi gli sviluppi per quanto riguarda la Libia, la guerra in Libia, sviluppi interni, quindi di politica interna con queste apparenti o reali divisioni, insomma anche all'interno della maggioranza stessa. E per quanto riguarda invece il fronte di guerra, tanto sapete che sono attivi i primi tornado italiani, si è parlato appunto di bombardamenti, differenze tra bombardamenti e razzi eccetera eccetera, ma sembra che Gheddafi voglia chiedere la tregua. Sarà attendibile o sarà una delle sue sparate colossali? Poi il matrimonio del secolo, come non citarlo, il matrimonio tra William e Kate, diciamo che sono stati gli sposi con il maggior numero di testimoni al mondo, circa 2 miliardi e passa di persone che hanno seguito questo matrimonio, che è anche una fotografia di come cambia la società e come cambia anche la monarchia, come si evolve anche la Gran Bretagna da questo punto di vista. Un matrimonio con invitati, diciamo, un po' sui generis rispetto alla tradizione, poi magari ne parliamo se volete. Poi ci sarà domani, lo sapete, la beatificazione di Giovanni Paolo II, quindi tantissimi pellegrini, tanta gente a Roma. E il 1° maggio e quindi è anche la festa dei lavoratori, di nuovo anche questa settimana, anzi sono cresciute le polemiche, il dibattito intorno al fatto di tenere i negozi aperti oppure no. Milano e Firenze hanno deciso di sì, però allora ci sarà lo sciopero indetto dai sindacati e forse anche altre città terranno i negozi aperti. Cosa ne pensate? Poi vedremo anche su Facebook, sono intervenuti molti ascoltatori. Il biotestamento, si torna a parlarne anche qui con una grande scia, diciamo, di polemiche, di opinioni opposte. Qualcuno, il governo vuole accelerare, qualcuno dice che sia stato sotto la spinta dell'UDC, quindi per questioni, diciamo, strategico-politiche e non di vera necessità, come possiamo dire, umana, di esigenza delle persone di vedere fatta una legge su questo argomento così delicato. E poi la Corte di Giustizia Europea che ha diciamo sanzionato l'Italia, diciamo almeno così da un punto di vista come vogliamo dire, formale, verbale, dicendo la legge sui clandestini in carcere non va bene perché bisogna invece cercare di accompagnarli volontariamente semmai all'espatrio. Bene, diciamo che di carne al fuoco ce n'è moltissima. 800 24 00 24 come sempre non mi esimo dal raccontarvi che cosa secondo me questa settimana conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Bene, sono uscite delle ricerche, 7 studi molto prestigiosi di università internazionali che hanno smentito alcuni luoghi comuni. Vedete che quindi non ci sono più le mezze stagioni. Ecco, per esempio, alcune buone abitudini farebbero in realtà male. Per esempio, farsi una doccia al giorno. Uno pensa, certo, mantenersi pulito, tutti facevano una doccia al giorno, più o meno. Qualcuno era un po' più raramente, diciamo. Poi il dormire 8 ore, io dormo 5-6, non so voi, però ho sempre pensato che sia una buona abitudine quella di dormire almeno 8 ore. E poi ce n'è anche una più controversa che citerò tra poco, però secondo queste ricerche, sinteticamente, allora una doccia al giorno in realtà farebbe male perché a forza di lavarci il corpo tutti i giorni con questi saponi, quel microfilm che protegge naturalmente la nostra pelle va a farsi benedire e quindi la nostra pelle in realtà è più soggetta a infezioni, funghi, eccetera, eccetera. Questo della Cranley Clinic di Londra, questa ricerca. Poi l'altra ricerca appunto sul sonno e un'altra più controversa di un studio serissimo israeliano sulla questione della posizione da assumere quando si va in bagno, però non approfondisco, ecco, solo per dirvi che insomma non ci sono più le mezze stagioni. Ma adesso, signore e signori, è il momento di annunciare con grande enfasi l'opinionista estemporaneo. Oliviero Bea. Buongiorno. Ben ritrovato, Oliviero. Grazie. Tutto buongiorno bene? A tutti. La sveglia, sì, la sveglia com'è andata? Ma volete sapere quanto ho dormito? Sì. 6 ore e mezza. Doccia circa. Fatta, doccia? So come faccio un po' fatica. No, ieri sera. Ieri sera, va bene. Facciamo passare almeno 48 ore, già è qualcosa, Oliviero. Oliviero non ha bisogno di presentazioni, è giornalista, saggista, scrittore, editorialista del Fatto Quotidiano, ha scritto tanti libri, il penultimo molto stuzzicante dopo di lui, Il Diluvio, lui quella L maiuscola naturalmente, e poi Berlusconi, e poi quest'ultimo libro, invece un bellissimo libro, pubblicato da Ragno Editore, di poesie, ne ho letta qualcuna, mi sono piaciute molto, c'è una prefazione di Dario Fo, si chiama Meteco. Come mai Meteco? Ah, Meteco, per dare un'idea storica della cosa, nelle città-stato greche i meteci erano coloro che arrivavano da altrove, che erano senza casa e per certi versi oltre la casa. Un po' apolidi quindi, un po'. Sì, un po', ma apolidi è riduttivo, erano delle figure che non erano i cittadini liberi greci, da cui è nata poi tutta la democrazia, ma non erano nemmeno gli schiavi, vivevano una situazione a mezza altezza. Ci sono famosissimi naturalmente medici, filosofi, retori che erano meteci nelle città greche, e la cosa interessante è che questa estraneità, questo essere a mezzi, è un'estraneità straordinariamente moderna, credo, per un po' per tutti noi. Per me in particolare, visto che l'ho usato questo termine per il libro, questa estraneità riguarda un po' il sentirsi a disagio sempre o molto spesso. Un po' diversi, quindi. Nel punto sbagliato, nel momento sbagliato, sentirsi a disagio. Ecco, io ho questa punta di estraneità che forse divido con qualcun altro, ecco, mettiamola così. Beh, direi di sì, che sei un po' in compagnia, via. Senti, Oliviero, io dopo gradirei, solo se c'è tempo, perché siamo un po' più ristrettini oggi, leggere una delle tue poesie. Per esempio mi piace moltissimo quella dedicata alla tua gatta, forse perché mi ci sono ritrovata. Io ho avuto anche una gatta bigia per 20 anni, sono cresciuta la gatta con le mie sorelle, la mia famiglia, e quindi sì, mi è piaciuta molto. Oppure un'altra che avevo visto, vediamo, fra le moltissime. Ma tu, mentre parli, Roberto, tu intanto parla per conto tuo, che io gli parlo da sola. Una cosa breve, una poesia aforistica. Vivere mi porta via un sacco di tempo e questo mi pregiudica il resto della giornata. sono d'accordo. Si arriva alla fine della giornata dicendo: ma tutte le cose che dovevo fare, solo il fatto appunto di vivere con tutte le nostre incombenze, i nostri affanni, anche solo i pensieri, quanta energia ti portano, quanto tempo, e poi dopo ti accorgi che ci vorrebbe tantissimo altro tempo che non c'è. Ma adesso, mentre disquisiamo di poesia, ecco La Rosa, volevo leggere, poi vediamo se c'è tempo, Oliviero, perché intanto vorrei che tu mi dicessi soltanto il titolo, l'argomento della notizia della settimana con la quale vorresti iniziare, perché voglio andare un attimo anche sulla pagina Facebook. Ci sono stati molti interventi, come sempre ve lo ricordo, c'è la pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni, dovete cercare Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni, per trovare quella giusta, se no andate su pagina di Meteo e cose di questo tipo. Oliviero, qual è la tua? La guerra in Libia e le ripercussioni in Italia. Bene, allora, invece su Facebook, due argomenti che sono stati molto dibattuti sono le affermazioni, appunto, di Silvio Berlusconi sul nucleare in questo vertice che c'è stato, questo vertice italo-francese, e dice un ascoltatore... Vediamolo. Cinzia Zini dice che, quindi questo rivela un bluff, insomma, che prima sembrava che il governo volesse dire no definitivamente alle centrali nucleari, invece dice un bluff che cela anche altro. Corrado scrive chiacchiere, un po' pesante, Corrado dice chiacchiere di un ubriaco con salti di tempo e di spazio. Il Visconte di Mezzato, così si firma questo ascoltatore, dice un bluff, per la verità ha anche osato dire che noi non andremo mica a bombardare la Libia con bombe a grappolo, useremo dei razzi, domani dirà che useremo dei mortaretti. Per un'ascoltatrice Paola, in realtà è un dubbio retorico questo, se sia una giusta pausa di riflessione quella che ha annunciato Berlusconi o sia un bluff. E poi Gioacchino scrive: facciamo il caso che si voglia essere veramente cattivi e che si voglia pensare male solo per distruggere e non per costruire. In una conferenza stampa congiunta italo-francese, un presidente del Consiglio si diletti ad affermare che il futuro è il nucleare. Spontanea la domanda: perché rilascia una dichiarazione del genere in codesta conferenza stampa a cui prende corpo, e cui prende corpo, dice, forma una strana società francese che guarda caso costruisce centrali atomiche e lo fa anche bene. Monica Mazzoli, che tra l'altro ha 19 anni, scrive: la rivelazione di un bluff, si è fregato con le sue mani, ha perso un'occasione per stare zitto. Poi valuteremo anche queste diverse posizioni, Oliviero. Invece sui negozi aperti il 1° maggio, dicevamo che è tornata molto forte questa polemica perché è domani il 1° maggio. E qui ci sono diverse opinioni. Vincenzo Esposito dice: ha ragione Renzi, il sindaco di Firenze, dice la CGIL fa una battaglia ideologica e di retroguardia. Per Mario Fioravanti dice anche Totò Riina, all'ora d'aria, in un mondo da 36 ore a settimana vogliono lavoratori 7 giorni per 24 ore. Margherita scrive: chiudere nelle località turistiche è delinquenziale, trattasi di servizio a superiore beneficio della collettività. Se c'è una pubblica utilità, dice Margherita, di mezzo, ben volentieri si può sacrificare la festa del lavoro, sia pure con tutte le regole del caso, cioè volontarietà, turni straordinari, via dicendo. Discorso diverso, sottolinea lei, per i centri commerciali, perché per quelli non c'è nessun flusso turistico a cui dare sostegno, quindi l'apertura sarebbe pura logica di profitto. Angelo dice: Londra 35 anni fa, quindi vuol dire che c'è stato, comprare il latte a 1 di notte. Madrid 20 anni fa, comprare il giornale, una felpa da Vips, dice, a qualsiasi ora. Eppure in questi posti non vi sono negrieri o sfruttatori del genere umano, qui siamo nel paese dei diritti acquisiti, quelli nostri, quindi evidentemente ritiene dei consumatori. Nico invece scrive: sarò antiquato, ma il simbolo del 1° maggio dovrebbe rimanere un totem. Il 1° maggio non si lavora, punto, se non per libera scelta del singolo, non del datore di lavoro. E poi Roberto dice: a me Renzi è sembrato un uomo pragmatico che ha dato la possibilità di lavorare a chi voleva farlo, specie in tempi di crisi. Ma ci sono già moltissime ascoltatrici e ascoltatori al numero verde 800 24 00 24, quindi ancora prima di collegarci con un altro pianeta, unica trasmissione al mondo questa che si collega anche con una dimensione extraplanetaria. Poi avremo un altro tipo di collegamento col quale tento, insomma, di avere a che fare ultimamente, però vorrei dare voce intanto ad Andrea dalla provincia di Milano. Andrea. Buongiorno. Buongiorno Andrea. E complimenti per la trasmissione e per il garbo con cui la conduce. Grazie, se lo dici tu mi fido. La notizia che mi ha colpito non è tra quelle citate, è quella del rave party, ma non tanto per quanto accaduto, che vicino Grosseto ci abitua. Sì, sì, quella nel Grossetano, sì, dove quei ragazzi hanno massacrato due carabinieri. Quanto le dichiarazioni fatte dal padre del maggiorenne, quello arrestato, che si rifiuta di andare a trovare il figlio, che dice che prima di andare a trovare il figlio comunque dovrà andare a chiedere scuse e perdono ai genitori, oltre che ai due carabinieri. E mi sembra una cosa, oggi come oggi, con quello che si legge, quasi un eroe omerico di quelli che non si vedono più. E mi ha veramente colpito per la sobrietà, per come si è comportato, e credo che sia una cosa straordinaria, purtroppo. Oggi. Senti Andrea, ti chiedo una cosa, siccome si tende anche, diciamo, un po' banalmente, un po' troppo facilonamente a dare la colpa di come sono i figli quando non sono venuti proprio benissimo ai genitori, secondo te com'è possibile da un padre così è venuto fuori un figlio così? Non lo so, io so che ho 3 figli e spero che non arrivino mai a fare quelle cose. Mi domando anche, per esempio, come dei genitori, mi riferisco agli altri 3 minorenni, non siano a conoscenza di che cosa vanno a fare dei figli la sera in questi luoghi, dove comunque non credo siano degli esempi di oratorio, o comunque situazioni sono sicuramente un po' critiche. Non lo so se la responsabilità è sempre dei genitori, però sicuramente i genitori fanno molto molto spesso la differenza. Poi le eccezioni purtroppo possono esistere. non, la storia non la conosco, però mi ha veramente colpito perché... No, giustamente, so, infatti sono parole dove piuttosto atto, i ragazzi distruggono le cose, i genitori dicono non sono stati i miei figli, quando i vigili li hanno visti in prima persona. Sì, manca questa presa di responsabilità, esatto. Anche un po' di, insomma, di senso civico. Andrea, ti ringrazio molto e sono grazie curiosa di voi, sapere... Grazie complimenti. Grazie ancora, Andrea. Che cosa ne pensi tu, Oliviero, brevemente, di una cosa così? Penso che Andrea abbia detto delle cose molto sagge, penso che da una parte c'è un'Italia con dei genitori che si dispiacciono che le loro figlie non fossero fra quelli che andavano a fare il bunga bunga, e gli intervistati rispondevano magari, ma era sua figlia, dice magari, ecco, e dall'altro però ci sono genitori come quello di questo ragazzo appena citato, oppure la madre con una straordinaria fermezza e nobiltà d'animo ha parlato semplicemente di umanità e di rapporto con gli altri a proposito della morte del figlio, ammazzato come si sa a Gaza poche settimane sì, fa. Arrigoni. Insomma, è tutto misto. A proposito dei genitori, siccome è il mestiere più difficile del mondo, quello del genitore, non c'è discussione, credo, su questo. Uno fa il possibile, ma ha grandi responsabilità. Poi non c'è garanzia che nemmeno facendo il meglio possibile poi dopo i figli vengano come uno si augura. Senti, comunque Oliviero, ti devo dire questa cosa prima di passare al prossimo ascoltatore. Non fare la maratona mentre sei al telefono, e se il telefono di 3 mesi fa, quando ci siamo sentiti, ti avevo chiesto di rottamarlo, mi sa che ancora non l'hai fatto, Oliviero, perché vai e vieni. E intanto all'800 24 00 24, Salvatore da Bari. Via, in Puglia. Buonasera. Salvatore, buonasera a te. Buonasera. Buongiorno. A lei, Roberta, è un piacere di salutare anche il signor Bea, che seguo dai tempi di quando giocava a calcio. Quindi niente, po' di meno. Anni. Quant'è quindi? Quanti sì. Sono? 40 anni? Quasi, sono un ex calciatore professionista dall'83 al 90, faccia lei, quindi sono passati un bel po' di anni. Complimenti, insomma. Allora, io non c'ho una notizia in particolare, perché ce n'ho tante e sceglierne una diveniva difficile. Però, tiriamo i dadi, sì. Sì, io e lo sconforto, il disorientamento che ci offre la nostra classe dirigente, non sappiamo più che strada intraprendere, accenniamo un passo e poi ci tocca tornare indietro oppure girare a 180 gradi o a 360 addirittura, interveniamo, non interveniamo in guerra, cioè un disorientamento totale che ci sta portando all'immobilismo già da troppo tempo, e l'uomo comune della strada, quale sono io, non facciamo salti mortali per cercare di tenere una linea e poi vediamo che chi dovrebbe darci degli esempi ci disorienta nel giro di 48 ore. Quindi il disappunto, l'amarezza è proprio questo, e non voglio schierarmi, non perché non ho il coraggio, ce l'ho ben presente le idee, è solo che il comune buonsenso è stato stravolto da eventi quasi quotidiani e da esempi assolutamente Salvatore, assurdi. Fammi, lo so che dici è una questione generale di classe politica, dirigente, eccetera, fammi un esempio in particolare, uno solo che ti venga in mente. Intervento in guerra sì, intervento in guerra no, nel giro di una settimana. Nucleare sì, con barra dritta, senza neanche ascoltare nulla, disattendendo un vecchio referendum, e poi torniamo indietro perché un sondaggio dice che è impopolare. Cioè, queste sono cose che disorientano un popolo. Come pensiamo di venirne fuori a breve se ci sono esempi così clamorosi di pessimo gusto, di pessimo... Salvatore, di tutto. Adesso allora ti ringrazio, vediamo se ti ha sentito la marziana con la quale tra pochi istanti ci colleghiamo. Intanto tra poco c'è Marcello dalla provincia di Lecce, quindi siamo ancora nel sud, poi mi direte anche che tempo fa visto che qua a Milano è molto grigio. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Allora dicevamo, colleghiamoci pure in modo extraplanetario. Riflessioni da Marte. Col mio telescopio costantemente puntato sul globo terracqueo ho potuto constatare qui da Marte questa settimana che gli esseri umani, particolarmente in terra italica e precipuamente esseri umani politici, un po' come diceva l'ascoltatore, hanno un autentico terrore del detto «solo uno stupido non cambia mai opinione». E difatti, per non sentirsi stupidi, fanno a gara a chi cambia più idee, a seconda insomma della convenienza. Diciamo, oggi questo è blu, domani invece è verde, dopodomani chissà. Per fortuna però ci sono taluni che hanno delle granitiche certezze, almeno su argomenti cruciali, e impavidi et instancabili le diffondono urbi e torbi. E quali sono queste certezze che appaiono qual stella polare nel caos universale? Per esempio, che i gay sono la vera lampante causa del degrado familiare e sociale, pure dell'impero romano, specie quando si vedono nei manifesti dei mobili svedesi che si danno oscenamente la mano come fossero di sesso diverso. E un politico di spicco rivela Puranco, in questi giorni di spasmodica ricerca di verità universale, che le pensioni dei gay le pagano i figli delle coppie etero. Che poi, se disgraziatamente qualche figlio o figlia delle coppie etero dovesse essere gay a sua volta, chi pagherà le pensioni degli altri gay che probabilmente sono figli di nessuno nati sotto i cavolfiori? È un bel rompicapo, lo so, ma fate un atto di fede, per favore, non fate troppe domande. E in questa inarrestabile ricerca di verità e certezze si cerca in questi giorni con un georadar la tomba della Gioconda nel sottosuolo di un convento fiorentino. Guarda tu, se un sorriso un tantino ambiguo doveva mettere questo tarlo infinito nelle menti umane. Qualcun altro invece con lo stesso georadar vorrebbe trovare la sottile differenza tra bombardamenti e razzi di precisione. Ma saggia, diciamo, è stata la California che, dovendo stringere la cintura per la crisi globale, ha deciso di rinunciare alla sua ricerca della verità sugli alieni. Diciamo che se ci lasciassero effettivamente in pace una buona volta non sarebbe male. Ci sono altre forme di vita intelligente nell'universo? Si sono sempre chiesti nella loro incessante ricerca gli studiosi californiani, sperando che la penuria di intelligenza umana sulla Terra fosse dovuta, diciamo, alla fuga di cervelli su altri pianeti. Niente. La domanda rimarrà senza risposta, almeno sino a quando non torneranno i finanziamenti per scovare UFO. Intanto, mentre si lasciano da parte vagheggiamenti di invasioni aliene, a Palazzo di Giustizia di Milano l'invasione c'è stata veramente a tutti gli effetti, ma di strambi ragnetti rossi, tantissimi ragnetti rossi, pare così. Ma perché poi proprio di quel colore? Qualcuno giura che fossero comunisti. In ogni caso, diciamo la verità, vinti ormai questa settimana i 47 milioni di euro del Super Enalotto. Mentre molti si fanno poche illusioni per non doversi poi disilludere, ci si rende conto che non ci si può affidare per sognare neanche più a una monetina lanciata nella fontana di Trevi affinché un desiderio venga esaudito, poiché impunemente, cinicamente, si rubano anche quella. Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate dei denari. Non ho colpa se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bambere di coccola l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. E se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Torniamo coi piedi per terra, via dai marziani. Oliviero Bea, quindi questa, diciamo, po', questo scoramento di Salvatore sui cambi di opinione e di idea sul fatto di non avere una linea precisa, tu avevi citato come tua notizia della settimana in particolare la guerra in Libia. No, tu che cosa ci hai capito? C'è una divisione generale anche all'interno del centro-sinistra, a maggior ragione poi nella maggioranza con la Lega che da una parte sembra d'accordo, poi no, prima Berlusconi invece diciamo si associa al Quirinale. Insomma, si capisce, che cosa hai capito tu di questa cosa? Beh, intanto, come per Andrea prima, così per Salvatore adesso, io mi congratulo per la lucidità degli ascoltatori. Modestamente, scusa. Se semplicemente mi allego a quello che ha appena detto Salvatore. C'è una classe dirigente, naturalmente con la politica in capo, ma insomma è tutta l'intera classe dirigente italiana, che è la peggiore classe dirigente che si ricordi in questo paese, perché è vuota di significato e di valori, a partire dalla politica, di politica non ha più niente, sono comitati d'affari variamente distribuiti con diverse responsabilità, diverse diciamo corresponsabilità e colpe, ma comunque accomunati da questa vuotezza. Di fronte a casi che sono oggettivamente gravi e difficili da gestire, come per esempio l'esplosione dell'Africa Minore, di cui la Libia e la Siria sono gli ultimi episodi, era ovvio che questi non sono in grado di lo diceva il povero Monicelli, non sono in grado di gestire, di amministrare un ufficio postale, vuoi che siamo in grado di pensare a fare o non fare la guerra, a parte il fatto che per rispettando l'articolo preciso della Costituzione noi la guerra non la prevediamo, quindi si viola continuamente la Costituzione fingendo attraverso parole camuffate, siamo missioni in pace, tutte balle, sono tutte gigantesche prese per i fondelli. Ma detto questo, oltre a questa considerazione di fondo, c'è proprio il fatto che si sbriciola la politica, la chiamo ancora così ma dovremmo trovare dei sinonimi, si sbriciolano le posizioni pragmatiche e sempre tattiche, mai strategiche della maggioranza e del governo, si sbriciola anche si sbriciolano le posizioni dell'opposizione, anche qui sempre tattiche mai strategiche, sullo sfondo c'è l'assenza totale di un senso del futuro, di una prospettiva, di un panorama, di un orizzonte, e noi stiamo qui ad affogare praticamente in una palude, questa è la verità, in 4-8 riassunto, non credo di aver detto molto di diverso a quello che ha detto Salvatore, insomma. Sì, insomma, l'hai detto poi col tue parole, col tuo pensiero. Devo dare una notizia che lascerà molti stupiti: è stata rinviata la luna di miele di William, perché William ha deciso di tornare al lavoro. L'ha annunciato Clarence House, il duca e la duchessa di Cambridge, come sono adesso che si sono sposati, hanno deciso di non partire per la luna di miele adesso, invece dopo aver passato il fine settimana nel Regno Unito, il duca tornerà al lavoro alla base di Anglesey della RAF, quindi dell'aviazione inglese. Quindi chi si chiedeva dove andranno, che faranno, cosa stanno facendo in questo momento, che mete sceglieranno, sono al lavoro. Ecco, quindi prendiamo esempio. Prima della prossima pausa, sempre al numero verde 800 24 00 24, ancora a sud c'è Marco della provincia di Lecce, poi ci sarà Marco della provincia invece di Campobasso, Marcello, perdonami, della provincia di Lecce. Marcello. Buongiorno, chiamo da Gallipoli per l'esattezza. Bellissima Gallipoli, proprio la punta estrema della Puglia. Sì, sì, un saluto a lei, all'invento dottor Bea, che apprezzo tantissimo negli ascoltatori. Mi fa piacere. Niente, io l'ho chiamata per due cose. La prima, per una notizia che non mi ha colpito, anziché colpito, non mi ha colpito. Cioè l'ennesima posizione, a prescindere di Di Pietro, contraria a quella del governo, senza poi documentare. Ritornando al discorso della vuotezza dei politici di oggi, cui faceva accenno il dottor Bea. Cosa ha detto Di Pietro? Cioè, che era contrario circa la posizione del governo per i bombardamenti in Libia. Ah, sì. Ma il modo in cui documenta questi suoi no, ripeto, secondo me è a prescindere, è giusto pur di dire qualcosa contro il governo. La seconda postilla, se mi permette, che permetto. Un paio di settimane fa, mi pare, aveva come ospite il dottor Mulè. Sì, Giorgio Mulè, il direttore di Panorama. Sì. Sì, che si trova a Mazara. E siccome accennava ai suoi cibi prelibati al pesce crudo di Mazara, se avrà occasione lo inviteremo volentieri a Gallipoli per far mangiare i gamberi viola gallipolini. Tutto qua. Lì ci sono anche i frutti di mare che sono molto buoni a Gallipoli. Frutti di mare e anche i gamberi viola che sono tipici nostri di Gallipoli. Bene, bene, abbiamo fatto anche un po' di cultura del territorio, cultura alimentare. Grazie Marcello. Grazie, buon appetito. Buon appetito. Oliviero, io volevo chiederti, a parte adesso tra poco ancora spazio alle voci delle ascoltatrici e degli ascoltatori, sul nucleare. Allora, Berlusconi, insomma, ha fatto questa dichiarazione nel vertice italo-francese. E qualcuno ha detto, ha annunciato una cosa che già era nell'aria, cioè che è una pausa, quella del governo, una giusta pausa di riflessione. Per qualcun altro invece è il disvelamento, diciamo, di un bluff, una specie di confessione involontaria. Per qualcun altro semplicemente forse ci ha tenuto a dire esattamente qual è la posizione del governo. Come la pensi tu? E poi c'è collegato ovviamente tutta la faccenda dei referendum, no? Per qualcuno si dovranno fare, per qualcuno ormai sono, diciamo, pleonastici, inutili. Che pensiero ti sei fatto? Che opinione? Allora, penso che nella sostanza naturalmente il tentativo sia quello di non far svolgere il referendum, perché sarebbero un test molto insidioso per la maggioranza, per un motivo molto semplice, che riporterebbe la gente, questi referendum riporterebbero la gente e molti votanti a, io credo questa volta, alle urne, dopo il rischio invece che per le amministrative prossime, che siano pochi che andare a votare, dopo una progressiva diminuzione dei votanti e crescita dell'astensione negli ultimi appuntamenti elettorali di vario tipo negli ultimi anni. Ecco, questi referendum, come appunto sul nucleare, poi sul rapporto legittimo impedimento Berlusconi-giustizia, cioè su che cosa si intende per tutto questo, e poi sull'acqua, sono tre referendum straordinariamente vicini alla gente, soprattutto se noi intendiamo per legittimo impedimento il fatto che c'è un problema giustizia in questo paese che l'ombra di Berlusconi occlude o tenebra. Sicuramente nella sostanza non si vuole fare questi referendum, ma io spero invece che si facciano, che la gente vada a votare come vuole, come naturalmente come crede, ma vada a votare manifestando la propria cosa. Nella forma invece è interessante e psicanalitico. O Berlusconi da questo punto di vista... Cioè gli è scappata secondo te o ho voluto rassicurare i francesi perché da loro viene la tecnologia nucleare? È vero che in questo momento con tutto quello che si legge, si sa di Berlusconi privato, che gli scappi non sarebbe l'ultima... Ma il problema è che sembra poco credibile che gli scappi una cosa di questo genere, vorrebbe dire che è incontinente, e siccome non credo che ancora sia arrivato a questo livello di incontinenza, secondo me non gli è scappata, ma è una misura che gli è servito per rimettere insieme almeno parte della sua maggioranza con una battuta di questo genere. L'unica cosa è che però questo dovrebbe provocare in teoria degli effetti contrari sull'opinione pubblica, perché a questo punto bisogna prese in giro, dice come? Allora niente referendum perché tu in realtà stai giocando sulla moratoria nucleare per poi rimetterti sul nucleare appena il referendum sarà stato bypassato. Quindi insomma è una brutta situazione, rimanda alla vuotezza e alla cattiva fede della politica in generale di cui parlavo prima. Marco dalla provincia di Campobasso, mi piace sentire un po' da Campobasso, il Molise si sente così poco, Marco. Fatemi sentire un po' di più. Sì. Pronto? Pronto? Sì. Allora, io volevo dire due cose. Una riguardo che chiamo da Montenegro di Bisaccia, sì, il paese natale di Pietro. Mm-hmm. Diciamo anche un ramo di parentela. Visto che il precedente ascoltatore parlava di Pietro, volevo dire anche il fatto che lui fa questi attacchi contro il governo, perché per me sono tutti uguali, che sia Berlusconi o che sia centrosinistra o centrodestra, quello che sia, sono tutti uguali, perché non abbiamo un governo che sa governare. Senti, ma quindi Di Pietro è diverso o uguale? Non ho capito. Sono uguali. Anche lui. Sì, anche lui è uguale a Berlusconi. Perché una persona che critica l'operato di un altro schieramento è uguale a lui. Però scusa, l'opposizione che esiste a fare, se ogni tanto lo dice anche no, io farei così, non va bene, cosa? No? Perché tanto poi alla fin fine vanno sempre sullo stesso argomento e la maggioranza vince sempre. Comunque. In Italia non c'è l'opposizione. Questo è probabile. Marco, comunque, quindi questa è la prima cosa. La seconda? La seconda cosa è il fatto del grossetano, dei ragazzi... Del rave party, sì, di quelli che hanno massacrato i due carabinieri. Sì, per me la colpa non si può dare ai genitori e nemmeno ai figli, perché io sono un ragazzo che ha 30 anni e non ho fatto uso di queste sostanze quando ero ragazzo. Però ho notato che i ragazzi si comportano in modo diverso fuori e dentro casa. Quindi il genitore non ha l'ombra di dubbio, non riesce mai a capire se il figlio fa uso di queste sostanze, si unisce con gli amici per ammazzare, per distruggere le... Dice hanno una doppia faccia, insomma, in casa in un modo e fuori in un altro. Marco, ti ringrazio, salutaci Campobasso e Montenegro di Bisaccio. Non so se c'è anche una lapide dedicata a Di Pietro, nel senso qui visse, qui nacque, sarebbe curioso saperlo, ma no, devo... Non c'è. Niente, non hanno ancora apposta. C'è tempo. Che Berlusconi ci sta pensando. Mamma mia. Va bene, grazie Marco. C'è invece Giovanni da Bari, ancora Puglia, siamo al sud. Qui. Sì, eccoci Giovanni. Pronto? Pronto. Sì. Roberta. Sono io. Dalla voce sua dende. Grazie. Da ben 11 anni. Cavolo, bravo, è una memoria quasi 12. Anche memoria? Caspita, un fedelissimo. Io, per me la Radio 24 è la mia vita. Ci picchia. Purtroppo io sono non vedente. E grazie a Radio 24, alla quale io molti anni fa ho fatto una proposta di voler pagare il canone. Giovanni, attento Radio che ti prendono 24. Seriamente, stai attento, ti prendono seriamente. Ti prendono seriamente, stai molto attento a quello che dici. Certo, ma l'ho detto anche, come si chiama il giornalista che fa la memoria, io sono 82enne, che fa la trasmissione dalle 6:30 alle 9 la sera. Ah, Cruciani, sì. Cruciani, hai detto che vuoi pagare il canone. Dunque, io volevo dire questo, lamentare purtroppo la smemorataggine colposa, se non dolosa, di chi non ha ricordato un certo Valesa, un certo sindacalista. Io sì, non polacco. Sono sinistrorso, ma neanche destrorso. Però rimprovero a tutti quelli che stanno celebrando e concelebrando, va bene, Papa Giovanni XXIII. Giovanni XXIII. Dalla sua veramente lungimirante. Papa Giovanni Paolo II. Paolo II. Sì. Va bene. Sì. Che se la cortina di ferro è la caduta del comunismo, la si deve innanzitutto a un certo Valesa, elettricista sindacalista, con i suoi moti a Danzica, se non ricordo male, va bene, e anche a Varsavia. Quindi dici, va ricordato anche lui. Nessuno che l'abbia ricordato, perché poi dopo... Ma lui vive ancora Valesa? Credo di sì, ha avuto un percorso politico un po' contrastato. Lo poi al benemerito Oliviero Bea. Aspetta, allora Giovanni, ti ringrazio intanto e giro anche Oliviero Bea, non solo questa sollecitazione di Giovanni Oliviero, ma mi ha incuriosito anche questo libro che è uscito in questi giorni, Oliviero, che si intitola Wojtyla Segreto, la prima controinchiesta su Giovanni Paolo II. Che è stato, mi senti, Oliviero? Il libro è, per esempio, io ogni lunedì faccio dalle 10 alle 11 in diretta su Rai 3 in televisione, faccio una trasmissione che si chiama Brontolo. Sì, Brontolo, ma aspetta un attimo prima di brontolare. Volevo citare questo libro, Wojtyla Segreto, la prima controinchiesta su Giovanni Paolo II, scritto dal vaticanista della stampa che è Giacomo Galeazzi e dal giornalista d'inchiesta che è Ferruccio Pinotti. No? Dicono questo non è un'inchiesta contro, ma su Giovanni Paolo II, però questo premettono, ma si parla anche di alcune ombre, diciamo, sulla figura che è grande di Giovanni Paolo II, ma per questo anche con luci e qualche ombra. Dice, il volume raccoglie così molte voci critiche, anche interne al Vaticano, che avrebbero voluto maggiormente indagati aspetti come le amicizie scomode, per esempio con Marcinkus, no, dello York, che Papa Luciani, che è vissuto, ha fatto il Papa 33 giorni, voleva un po' far fuori metaforicamente Marcinkus. Poi la sua gestione di Giovanni Paolo II dei dossier sulla pedofilia nella Chiesa, i movimenti di denaro che gonfiarono le casse di Solidarnosc in funzione anticomunista, di cui parlava l'ascoltatore, l'appoggio senza riserve ad alcuni movimenti, primo fra tutti quello dell'Opus Dei, che sotto Wojtyla avrebbe acquisito un potere sconosciuto da altre realtà ecclesiali. Ecco, secondo me vanno valutati tanti aspetti. Che cosa pensi tu, Oliviero? Prego. Stavo dicendo che Brontolo dopodomani fa una puntata che si intitolerà Beati Secondi, dedicata a Giovanni Paolo II, ha con ospite l'autore, uno dei due autori, Pinotti, con Wojtyla Segreto, con alcuni rappresentanti della Chiesa, vaticanisti e via dicendo, per vedere questi chiaroscuri e che riportano poi alla domanda di poco fa, e cioè Wałęsa, certo, la figura di Wałęsa è molto importante, ma è altrettanto importante capire da dove arrivassero poi i fondi perché il sindacato polacco potesse, Solidarność potesse fare quello che ha fatto. E i soldi sono arrivati dal Vaticano, e a chi glieli dava il Vaticano? Glieli dava Calvi, e quindi c'è tutta una situazione, come dire, se uno tira viene via tutto, non so se rendo l'idea. Non so se venga via tutto, però certo vanno valutate tante cose. Ma non viene via tutto soltanto in senso, adesso non sto dando giudizi di valore, di merito, negativo o positivo, sto dicendo che la complessità delle vicende a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80, che poi hanno portato al crollo del muro, quindi al cambio della geopolitica sul pianeta, sono collegate a tutto quello di cui stiamo parlando. Questa è detta in due parole, quindi molto molto interessante, molto molto importante, e con il pieno diritto dovere di critica nei confronti di tutto. tutto ciò. Ecco. E vi ricordo che se volete riascoltare la puntata e riascoltare anche voi siete intervenuti, si ascolta in podcast sul sito di Radio 24 e sulla stessa pagina Facebook. Dicevo, volevo chiedere anche a Oliviero Bea questo insistere del giornale per cui è editorialista, Il Fatto Quotidiano, ancora in prima pagina ieri: picchiare la moglie per i politici si può, anzi dell'altro ieri, sempre dedicato al deputato Ceroni del PDL, quello che vuole cambiare l'articolo 1 della Costituzione, che è venuto fuori appunto secondo questa inchiesta della giornalista Murri, che avrebbe mandato all'ospedale qualche anno fa la moglie con 20 giorni di prognosi per botte. Però abbiamo poco tempo e quindi dobbiamo galoppare verso la satira, quella di Stefano Andreoli, alias Spinoza.it. Che fotografia, che istantanea ci farà di questa settimana? Stefano, intanto pronto. Paolo Corleone con la mannaia, tu sai che insomma bisogna essere prudenti su queste cose. Stefano caro, buongiorno. Roberta, no? Buongiorno. Oggi non ti metterò nei guai, perché dopo che sai che io ti amo, poi quando usi avverbi come precipuamente, come ho fatto prima, sai che io ti amo. Diciamolo così proprio palesemente. Avevamo appena finito di elogiare il livello dei tuoi ascoltatori, poi è arrivato quello da Montenegro da Bisaccia, quindi ora sappiamo che chi critica una persona è uguale a lui. Ora sappiamo che criticare è essere uguali a chi si critica. E a seconda dei punti di vista. Una nuova visione politica. Ma veniamo. Notizia, non possiamo che aprire con le nozze reali. Certo. Kate Middleton sposa William d'Inghilterra. Benvenuta nella vita reale. In effetti, sarebbe piaciuta però la Kate, vabbè che c'è questa liaison tra di noi, ma insomma, sì. Chiaramente tiene banco questa storia della Libia, guerra sì, guerra no. Prima Berlusconi fraternizza con Gheddafi, si fa vedere persino a baciargli pochi mesi fa, baciare la mano di Gheddafi, ma io lo capisco, aveva visto il gonnellone, non ci ha più capito niente Berlusconi. È fatto così e ora adesso pare che si sia in guerra. Nasce così la figura dei bombamici, che è una nuova figura ibrida, diciamo, che Berlusconi e Gheddafi ha appunto brevettato. Sì. Anche aerei italiani, quindi, nel conflitto in Libia. Effettivamente. Li riconosci dal Padre Pio sul cruscotto, ecco, quelli sono gli aerei italiani. L'Italia però puntualizza, faremo solo attacchi di altissima precisione. Così hanno detto, chirurgica. Attacchi di altissima precisione al quartier generale di Gheddafi. Le prime bombe hanno mischiato tutti i suoi appunti. Tanto erano precise, lei tu pensa a che livello di pressione può arrivare. Un po' di ordine, un po' di impegno si rimette tutto a posto. Può arrivare. Ora siamo in guerra in Libia. Morire in Afghanistan sarà veramente demodé d'ora in poi. Quindi veramente non possiamo peraltro neanche menzionare appunto Papa Wojtyla, questo processo di beatificazione che si concluderà proprio il 1 maggio. In fondo è morto sul lavoro anche lui, quindi quale Paolo tieni pronta la mannaia, che sento che quale qui data migliore adesso sì? Chiudiamo con una notizia internazionale. Prima un altro appunto: il governo cancella il nucleare. Io speravo nel contrario, ma va già bene così. Chiudiamo con notizia internazionale. Houston, abbiamo un problema. In Texas un bambino di 6 anni va a scuola con una pistola a 6 anni. Ogni poco succede, sì. E poi non possiamo stupirci se a 13 arrivano coi cannoni. Molto bene, via e via. Anche Stefano Andreoli fatto anche questa volta. Ce la siamo scampata. Manca circa un minuto, carissimo Oliviero Bea. Su cosa ci vogliamo concentrare? Sulle tantissime cose, non so, qui per esempio mi incuriosiva questo pezzo di Pierluigi Battista sul Corriere di questi giorni, la sfida di quel terzo pilastro del governo a proposito dei responsabili, insomma, ironizzava un pochino. Responsabili come al solito si gioca sull'omonimia, quando si dice Razzi su Gheddafi è uno degli è uno dei responsabili, come Scilipoti, insomma. Che pensi di Scilipoti? Sì. Il principe William che torna a lavorare immediatamente, evidentemente da retta a Renzi, insomma tante cose si possono fare sentendo un po' di satira, però insomma scegli tu, io sono a tua disposizione anche per questi ultimi secondi. Senti, io non so se ho tempo, no, dice, non volevo leggere questa poesia alla rosa, ma troveremo tempo un'altra volta, caro Oliviero Bia. Ci sarai tu alla Fiera del Libro di Torino? Ci sarà anche Stefano Andreoli? No, è la prima volta che manco, per cui voglio dire, spero che non sentiate la mia mancanza. Ma la tua poesia leggerà anche la Fiera di Torino, Metè, col suo ultimo libro. Grazie Oliviero Bea, alla prossima. Ciao. Ciao Oliviera. E da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.